l'esiguità degli incentivi messi a disposizione a aprile, 10 milioni, l'anno scorso 12 milioni per esattezza, l'anno scorso ne abbiamo avuti 130, ha giocato negativamente. Adesso l'annuncio della riapertura degli incentivi che scattano proprio da domani, speriamo ci faccia recuperare in parte il gap che si è verificato. Ma il calo, mi scusi, è stato dovuto soprattutto ai consumi italiani o anche avete avuto problemi nelle esportazioni? Ma anche il mercato europeo in generale è calato, perché è calato circa del 10%, per cui risentiamo sia del mercato nazionale che dell'export in generale. Ecco, però voi oggi, nell'aprire un salone così importante, purtroppo celebrate anche un record negativo, cioè il calo delle immatricolazioni delle due ruote a ottobre ha fatto meno 46%, quasi 45,8%, in linea con, anzi peggio di quello che ha fatto l'auto. Confidate che gli incentivi possano risolvere tutto? No, gli incentivi senz'altro non risolvono tutto, danno un aiuto alle industrie e mi permetta di dire che danno un aiuto anche alla qualità dell'aria, perché chi rottama poi l'euro 0, l'euro 1 e circola in euro 2, un euro 3, migliora la qualità dell'aria. Però è un salone improntato all'ottimismo, è impressionante il numero di novità sia nel campo della moto che nel campo degli accessori che sono stati presentati in questo salone.